Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno care amiche e cari amici, ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni europee. Vi ricordo che si vota sabato pomeriggio e domenica questa volta. Dunque una campagna elettorale all'insegna della fiacchezza, certamente non è stata una campagna elettorale travolgente, sembra quasi che i partiti non abbiano grandi carte per dimostrare quella che è l'utilità dell'Europa e per indurci a votare con un pochino più di entusiasmo. L'Europa è stata molto criticata in questi ultimi anni, anche se gli italiani, come ricorderete, sono tradizionalmente sempre stati fra i più europeisti nei paesi membri della Comunità Europea, prima dell'Unione Europea adesso. Certamente l'Europa non è più un mito che affascina, eppure dovrebbe interessarci tutti un po' di più. Molte delle decisioni che ci riguardano infatti sono prese proprio in Europa, secondo alcuni troppe, secondo alcuni queste decisioni sono troppo burocratizzate, e questo appunto aumenta un sentimento di freddezza e di diffidenza nei confronti dell'Europa e dell'Unione Europea. Ma spesso c'è anche molto folklore in queste critiche, e in realtà l'Europa prende delle decisioni importanti che ci coinvolgono, e quindi forse in vista proprio di questa scadenza elettorale della settimana la prossima qualche titolo da sfogliare può essere utile. Ve ne segnalo adesso alcuni. Il primo è di un importante eurocrate, come si diceva una volta, cioè di quei funzionari dirigenti dell'Unione Europea importanti che sostanzialmente poi guidano la corsa nelle decisioni politiche, ed è proprio quello l'ambiente nel quale l'Italia forse fa troppo poco rispetto al peso che potrebbe esercitare. Parlo di Giancarlo Chevallard, che è stato appunto un importante dirigente dell'Europa, ora a riposo, ha lavorato con alcune figure storiche dell'Unione Europea, Spinelli, Giolitti, Natali, Delors, ed è stato ambasciatore dell'Unione Europea in Israele. Ha pubblicato con Rubbettino L'Italia vista dall'Europa, testimonianza da Bruxelles. Il libro costa 20 euro, 216 pagine, e in questo libro offre, distilla le esperienze che egli ha vissuto in Europa e soprattutto ci aiuta a capire come funzioni l'Europa e quale sia il ruolo che l'Italia vi potrebbe giocare. Molto spesso l'Europa, come dicevo prima, per l'insipienza anche della politica italiana, è un'occasione persa più che un'opportunità, col risultato che noi sprechiamo molte risorse, o meglio non attingiamo a molte risorse europee, e rafforziamo anche, contribuiamo a rafforzare questa impressione di spreco, di burocrazia che l'Europa spesso trasmette. E invece questa di Chevallard è proprio una guida per rivedere alcune occasioni perdute e per capire come queste occasioni perdute potrebbero diventare delle ottime opportunità. Sentiamo dallo stesso autore e come potrebbe funzionare questo rapporto più virtuoso con l'Europa. Buongiorno a Giancarlo Chevallard. Buongiorno direttore. Dottor Chevallard, questo libro inizia per una drammatica coincidenza dall'Aquila, dove viene sottolineato in un episodio doloroso, il funerale dell'ex commissario Lorenzo Natali, viene sottolineato appunto il distacco che c'è sempre stato fra le istituzioni europee e le istituzioni italiane, che hanno considerato l'Europa un po' come una specie di cimitero degli elefanti. Ecco, sì. Allora, da questo libro non sembra che la situazione sia molto migliorata da allora. Direi di no, la mia testimonianza di 35 anni al servizio delle istituzioni europee a Bruxelles è ricca di esperienze, ma che vanno nel senso piuttosto di un accresciuto doppio standard, cioè europeismo sì, europeismo della domenica, ma comportamenti poi quotidiani divaricati rispetto all'esigenza di stare assieme all'Europa. E quell'episodio di Natali è eclatante, del funerale di Natali, perché vede il vecchio presidente dell'Orga, Tamicone, lamentarsi di fronte a una piazza assolutamente insensibile, persa in un brusio negli affari propri, lamentarsi appunto che un grande operatore dell'Europa era stato sottratto dai giochi politici italiani al servizio stesso dell'Europa. Ecco, in questi giorni c'è la campagna elettorale, un po' fiacchina, ma del resto non soltanto tanto in Italia, ma insomma sì, c'è la campagna elettorale. Allora, lei che l'Europa l'ha vissuta dall'interno e non da politico, cerchi di dare una ragione agli italiani che ci ascoltano per la quale devono andare a votare, devono occuparsi dell'Europa, e che le scelte dell'Europa non sono scelte che riguardano soltanto le zucchine, come si banalmente si riduce, ma che ci sono scelte importanti che ci condizioneranno poi. Sì, è una domanda particolarmente pertinente in questo momento, perché è un momento, la crisi, insomma la rivoluzione in atto nelle relazioni mondiali, che rivela che c'è bisogno di più Europa, non di meno Europa, per far fronte alla crisi economica, per stare su piedi di parità con la nuova amministrazione americana, per far fronte ai poteri emergenti. Non è che si possa pensare che i singoli paesi europei ce la possano fare, devono unirsi sempre di più, e tutti gli analisti più lucidi lo riconoscono, quindi c'è bisogno non già di meno Europa ma di più Europa. Lei sostiene nel suo libro che la voce dell'Italia in Europa è percepita come una voce costruttiva, perché in molte occasioni favorisce il dialogo, il compromesso, ma anche debole, addirittura perfino incerta. Come mai? La voce dell'Italia è estremamente leale, nel senso che l'Italia è veramente europeista. Non si conta, non si ricorda nella vita comunitaria dei casi in cui l'Italia abbia posto il veto, in cui l'Italia si sia opposta a delle decisioni prese a maggioranza. Il suo comportamento in questo senso è stato ineccepibile, però a questi comportamenti non corrisponde un'analoga capacità di iniziativa, di coerenza di azioni, e anzi vi corrisponde sempre meno. Se noi guardiamo in fondo l'Italietta degli anni 70 e 80, in piena crisi valutaria, col terrorismo eccetera, c'era però una capacità di proposta, di iniziativa, di raccordo tra la leadership italiana e la leadership tedesca o francese, che permetteva all'Italia di giocare ruoli decisivi. Pensiamo per il Consiglio europeo di Milano, che ha dato il via al mercato unico, quello di Roma che ha dato il via all'Unione, alla moneta unica, e l'Italia ha giocato dei ruoli decisivi. Oggi, negli ultimi 15 anni, tutto questo si è appannato, è venuto a mancare la capacità di iniziativa, la capacità anche al limite di difesa dei propri interessi, perché ci presentiamo a Bruxelles in maniera sempre più disordinata, cacofonica in qualche modo. E in questo il prossimo Parlamento europeo potrà fare qualcosa? Ma io spero di sì. È importante che le forze che rappresenteranno l'Italia nel Parlamento europeo entrino a far parte dei grandi gruppi politici. Vede, il problema italiano in questi ultimi 15 anni è che da un lato Forza Italia, N Lega, dall'altro lato Margherita, insomma ex PD e whatever, tutte queste forze sono state marginali rispetto alle grandi famiglie politiche, non erano né al cuore del Partito Popolare, cioè della Democrazia Cristiana Europea, né al cuore del Partito Socialista, e quindi non hanno saputo influenzare in maniera importante il processo decisionale del Parlamento Europeo. La cosa più eclatante, la prova più eclatante, è che mentre nei 30 anni del Parlamento eletto indirettamente, quando avevamo socialisti, democristiani e liberali, abbiamo avuto 6 presidenti italiani del Parlamento Europeo, da 78 a oggi non abbiamo avuto uno, e questo vale anche per tutti gli incarichi importanti in seno al Parlamento Europeo. Bene, e quindi votare e sperare che gli italiani facciano bella figura. Grazie a Giancarlo Sciavallaro. Bella figura e si impegnino nel là dove si conta impegnarsi. Certo, grazie a Giancarlo Sciavallaro. Un testo insolito sull'Europa è quello della studiosa Patrizia Nans. Si intitola Europolis, un'idea controcorrente di integrazione politica, e pubblicato da Feltrinelli, 268 pagine, 25 euro, tradotto dall'inglese da Marta Sircana. Questo libro affronta quello che gli specialisti chiamano il tema del deficit di democrazia, il fatto cioè che l'Europa in fondo manca di un'autentica legittimazione democratica. Andiamo sì a votare sabato e domenica prossima, però in fondo il popolo popolo europeo è abbastanza escluso dalle grandi decisioni. E la studiosa prende in considerazione due scuole che da questo punto di vista si fronteggiano: la scuola liberal-liberista, secondo la quale sono gli interessi economici quelli che determinano lo sviluppo dell'Unione Europea, che quindi non hanno bisogno di particolari bardature istituzionali, come per esempio la Costituzione Europea, sulla quale si è molto discusso negli scorsi anni, e l'altra scuola, quella socialdemocratica, secondo la quale occorre viceversa una Costituzione che riconosca l'esistenza di un popolo, di un demos appunto, e stabilisca quindi il primato della politica sull'economia. Una posizione questa però che è risultata finora impossibile da costruire. Il libro ripercorre quindi questo dibattito e cerca di aprire una prospettiva di dialogo tra le varie opinioni pubbliche, spingendo perché si riconoscano le differenze e si giunga a un compromesso condiviso. Insomma, conclude l'autrice, l'eterogeneità dell'Europa non sarà cancellata da un'identità europea sovraordinata, può solo essere mediata dialogicamente da una politica della memoria che da una parte deve essere sostenuta da ricchi racconti storici e dall'altra deve essere legata all'azione politica transnazionale. Il nucleo dell'identità europea, conclude, deve essere reperito nella crescente riflessività entro le identità collettive europee. Insomma, cercare in modo gli strumenti per dialogare di più, per essere capaci non soltanto di votare insieme ma anche di pensare. A questo pure dovrebbe servire un Parlamento comune. Una descrizione puntuale e problematica e aperta quindi alle prospettive future sull'Europa è quella di Paolo Guerrieri e per Carlo Padoan. Il primo è professore all'Università di Roma e al Collegio d'Europa Bruges, il secondo all'Università di Roma, vice segretario generale dell'Ocse e vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali di Roma. Hanno scritto insieme L'economia europea tra crisi e sfide globali, pubblicato dal Mulino, 144 pagine, 8,80 euro. Un libro breve ma chiaro, esauriente, documentato, che ha il pregio di sottolineare innanzitutto gli straordinari successi che sono stati ottenuti grazie all'integrazione economica dell'Europa, che spesso tendiamo a dimenticare, e che culminarono nel mercato unico. Dopo quel successo la crisi, certamente, soprattutto alla luce dello straordinario dinamismo che dagli anni 90 in poi manifestarono gli Stati Uniti, che portarono a far crescere questo sentimento di diffidenza e di freddezza nei confronti dell'Europa, che si sentiva sempre più paralizzata rispetto agli Stati Uniti. Adesso l'Europa vive una prospettiva di forte ridimensionamento per quello che riguarda l'economia, una prospettiva che si può contrastare, dicono gli autori, a due condizioni: ridare dinamismo al suo sistema economico e sociale e imparare a parlare con una voce sola. E in fondo il nostro voto della settimana prossima dovrebbe servire anche a questo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Oggi a Roma finisce il Giro d'Italia. Questa è stata un'edizione speciale, come ricordate tutti, che ha festeggiato il centenario di questo grande appuntamento sportivo che è ormai parte della storia del nostro paese. Ritorna in questa occasione un romanzo reportage di Franco Cordelli, che è critico teatrale del Corriere della Sera, che pubblicò questo libro nel 1989. Si intitola L'Italia di Mattina, è pubblicato da Giulio Perrone, 140 pagine, 11 euro. Nel libro un giornalista di nome Scipione segue la carovana del Giro e il suo diventa, più che una cronaca sportiva, un viaggio insolito e molto partecipato nel nostro paese, da Taormina e Catania fino alle Dolomiti. La formula del libro è una formula insolita che l'autore descrive così in un'intervista finale a questa edizione del libro a Paolo Di Paolo. Una scrittura di rendiconto, cronaca dei fatti, scrive Cordelli. Il libro non è altro che un continuo, lieve, incessante commento alla cronaca dei fatti, qualcosa che su di essi opera una costante deformazione, e in questo senso il suo libro diventa una descrizione di un'idea dell'Italia, della quale è una testimonianza interessante questa reazione al passaggio del Giro proprio da Roma, dove oggi appunto si conclude l'edizione del centenario. Roma, città di autocontemplazione assoluta, di burocrazie misteriose che ovunque si infiltrano, come se il popolo stesso non fosse che un'immensa setta di agenti segreti di una potenza irriferibile allo spazio e al tempo. Roma, dunque, diventava l'ovvio sbocco, quasi il compimento e il culmine di tutto ciò che aveva scoperto o riscoperto risalendo la penisola. A Roma cominciava la civiltà, ma nello stesso tempo vi si concludeva. Vi si spegnevano gli ardori, vi venivano frenati gli slanci. Perfino le corse ciclistiche dovevano inchinarsi al Dio che presiede. Roma, dunque. L'arrivo ai fori imperiali sotto la pioggia, un po' triste. Tutti insieme al Colosseo, volata lunghissima di Urs Freuler su Mario Cipollini, il più giovane degli sprinter italiani. Era fuggito l'australiano Phil Anderson alle porte di Roma, sull'Appia. Era stato ripreso a un chilometro dal traguardo. Scipione e Martino, mestamente, tornarono sui loro passi. Il primo, per la sua abitudine di cercare una piccola essenza letteraria dello spirito dei luoghi, avrebbe voluto citare Federico Fellini, o per meglio dire, Ennio Flaiano. O meglio ancora, il maestro di Flaiano, Vincenzo Cardarelli, il suo Il sole a picco. Ma aveva dimenticato il libro nel bagagliaio della macchina, avrebbe dovuto rinunciare e per il momento era meglio così. Lo stesso spirito aleggia nel libro di Paolo Rumiz, L'Italia in seconda classe, pubblicato da Feltrinelli, 144 pagine, 12 euro, con le illustrazioni di Altan e la premessa di un personaggio misterioso che poi si rivelerà con una sorpresa lungo il percorso. Rumiz è un giornalista di Repubblica che percorre anche lui l'Italia, ma non al seguito del giro, bensì in treno, per riscoprire un paese davvero segreto e sorprendente. Curioso è anche il percorso, perché l'autore vuole percorrere lo stesso numero di chilometri della Transiberiana, su linee soprattutto secondarie, e questa sua avventura dà vita a un reportage sul giornale, su Repubblica, lo pubblicò nel 2002, che ora torna, pubblicato appunto da Feltrinelli, senza perdere però freschezza, anzi c'è sicuramente da leggerlo tutto d'un fiato, seguendo le avventure dei due personaggi. C'è una forte connotazione ideologica nel libro, contraria per esempio alle privatizzazioni, al nuovo corso efficientista delle ferrovie. C'è sicuramente la diffidenza verso le nuove linee, verso l'alta velocità, che penalizzerebbero quelle meno battute, ma c'è soprattutto il ritratto di un'Italia che oggi talora in certi punti ci appare in disfacimento, ma che fu bellissima e soprattutto capace di opere ardite, come certe linee ferrate, certi viadotti, certe gallerie che Rumiz descrive puntualmente, dandoci trasmettendoci il senso di opere nelle quali è veramente un'avventura viaggiare ancora. Curiosamente, un libro assai simile nell'impostazione è uscito in Gran Bretagna, si intitola 11 Minutes Late, A Train Journey to the Soul of Britain, 11 minuti di ritardo, un viaggio in treno nell'anima dell'Inghilterra, di Matthew Engel, è pubblicata da Macmillan, 12 sterline. Anche qui un viaggio in treno in Gran Bretagna che segue un percorso diverso dal sud al nord per impiegare il più breve tempo possibile. E anche qui le sorprendenti scoperte di zone meravigliose della Gran Bretagna che possono essere raggiunte solo in treno, con una verifica anche qui ugualmente critica sulle condizioni delle ferrovie inglesi, soprattutto dopo la privatizzazione. Lo scrittore per esempio nota come i privati, che dovrebbero avere molto in conto questi valori, non riescano a offrire alcun senso di stile o orgoglio o perfino marketing, tutte cose che un'impresa privata scrive e si suppone debba essere brava a garantire. Torniamo al ciclismo con due libri che hanno lo stesso titolo e che riguardano i due più grandi campioni del ciclismo, Coppi e Bartali. Il primo è di un grande scrittore italiano, uno dei più noti e discussi del Novecento, Curzio Malaparte, di cui Adelphi presenta Coppi e Bartali, 56 pagine, 5,50 euro. Il duello fra questi due rivali, fra questi due nemici fraterni, è il più bello, il più puro, il più nobile al quale sarà mai dato di assistere. Lo sport internazionale forse non vedrà mai più l'uno di fronte all'altro, due campioni che incarnino a tal punto i due aspetti essenziali del mondo moderno. Bartali è il campione di un mondo già scomparso, il sopravvissuto di una civiltà che la guerra ha ucciso. Rappresenta quel romanticismo inquieto e inquietante che ha raggiunto l'apice fra le due guerre e perpetua nel mondo moderno lo spirito eroico della vecchia Europa. Coppi è il campione del nuovo mondo partorito dalla guerra e dalla liberazione. Rappresenta lo spirito razionale, scientifico, il cinismo, l'ironia, lo scetticismo della nuova Europa, l'assenza di immagine delle nuove generazioni, il loro credo materialista. In Bartali, nato da una famiglia di agricoltori toscani, prevale il contadino, con la sua mistica elementare, la sua fede in Dio, il suo attaccamento ai valori tradizionali della terra. In Coppi, prevale invece l'operaio, sebbene anche lui sia nato in una famiglia di contadini. Ma mentre Bartali è passato dall'aratro alla bicicletta, Coppi, quando ha sposato la bicicletta, aveva già ripudiato la terra. Lo stesso titolo, questa volta con la E commerciale, è quello del libro di Giampaolo Ormezzano, che è uno dei più noti giornalisti sportivi italiani. E questo libro, Coppi e Bartali, è pubblicato da San Paolo, 164 pagine, 14 euro. Se il libro di Malaparte è la testimonianza letteraria, una testimonianza letteraria del passato, qui abbiamo un libro nuovo che ha una particolarità, quella di essere stato scritto con i libri di Coppi e Bartali, Marina Coppi e Andrea Bartali. E infatti il libro è sottotitolato Due amici che l'Italia voleva rivali, raccontati dai figli. Il libro di Malaparte comincia con un'appassionata lode della bicicletta che naturalmente tutti i tifosi e soprattutto quelli che amano andare in bicicletta potranno confrontare con un classico più recente, l'elogio della bicicletta di Ivan Illich, filosofo e antropologo scomparso nel 2002, che viene adesso riproposto da Bollati Boringhieri, 100 pagine, 7 euro, tradotto da Ettore Capriolo. Questo libretto fu pubblicato nella prima stesura sul quotidiano Le Monde per commentare la crisi energetica del 1973. E qua Illich contesta il mito della velocità e quindi dell'automobile per indicare nella bicicletta il perfetto traduttore, scrive, per accordare l'energia metabolica dell'uomo all'impendenza della locomozione. Munito di questo strumento, l'uomo supera in efficienza non solo qualunque macchina, ma anche tutti gli altri animali. Le invenzioni del cuscinetto a sfera, della ruota a raggi tangenti e del pneumatico messe assieme si possono paragonare solo a tre altri grandi eventi nella storia del trasporto, e cioè l'invenzione della ruota, della staffa, della bardatura del ferro di cavallo e delle navi d'altura. Un elogio più recente della bicicletta è quello del sociologo francese Marc Auger, pubblicato dalla stessa Bollati Boringhieri, si intitola Il bello della bicicletta, 70 pagine, 8 euro, tradotto da Valentina Parlato. Parlavamo prima di Malaparte, di questo autore italiano. Adelphi ha appena pubblicato una nuova edizione del libro forse più noto e discusso, Caput, sono 476 pagine, 22 euro. Queste sono storie crudeli di guerra che segnano la fine di un'Europa che Malaparte spera possa rinascere, con tutta la diffidenza però che allo scrittore viene determinata dalla sua profonda diffidenza nei confronti della condizione umana. Questo libro venne pubblicato nel 1944 a Napoli ed ebbe subito un grande successo. Malaparte vi riordina e ripropone molti spunti vissuti nella sua duplice esperienza di capitano degli Alpini e corrispondente di guerra del Corriere della Sera. E a questo punto il confettino. Capisco la passione per i libri, ma questo bambino esagera. Il titolo del libro è L'incredibile bimbo mangia libri di Olivier Jeffers, è pubblicato da Zoo Libri, 15 euro. Il bambino qua i libri li ama veramente, anche appunto al punto di mangiarli, ma poi scoprirà che si possono consumare in altra, più proficua maniera. E con questo ringrazio Daniele Casagrande, Vittorio Mussini in redazione e Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Passo la linea a Respiro. A voi auguro buona domenica e do appuntamento alla settimana prossima.